Nel maggio 1853, Eliza lesse sul giornale che Joaquín Murieta e il suo affiliato Jack Tredita avevano attaccato un accampamento di sei pacifici cinesi. Li avevano legati per la coda dei capelli, li avevano decapitati, poi avevano appeso le teste a un albero come tanti meloni. Le strade erano territorio dei banditi, nessuno si muoveva con tranquillità in quella regione. Bisognava spostarsi in gruppi numerosi e ben armati. Assassinavano minatori americani, avventurieri francesi, piccoli commercianti ebrei e viaggiatori di qualsiasi razza, ma in genere non attaccavano indiani e messicani. Di loro si occupavano i gringo. La gente atterrita sprangava porte e finestre, gli uomini stavano di guardia con le carabine cariche e le donne stavano nascoste perché nessuna desiderava finire nelle mani di Jack Tredita. Di Murieta invece si diceva che non maltrattasse mai le donne e che in più di una circostanza avesse evitato a qualche ragazza di essere disonorata dai facinorosi della sua cricca. Nelle locande veniva rifiutata l'ospitalità ai viaggiatori messicani o cileni perché si temeva che uno di loro fosse Murieta. Nessuno lo aveva visto di persona e le descrizioni si contraddicevano l'un l'altra, anche se gli articoli di Fremont avevano forgiato un'immagine romantica del bandito che la maggior parte dei lettori prendeva per buona. A Jackson si formò il primo gruppo di volontari che doveva stanare la banda e presto in ogni villaggio si organizzarono compagnie di vendicatori e si scatenò una caccia all'uomo mai vista prima. Tutti quelli che parlavano spagnolo erano sospetti e in poche settimane il numero dei linciaggi immediati superò il totale di quelli verificatisi nei 4 anni precedenti. Bastava parlare spagnolo per essere ritenuto un nemico pubblico e per tirarsi addosso le ire degli sceriffi e delle guardie. Il colmo della beffa fu quando la banda di Murieta, in fuga da una pattuglia di soldati americani di cui sentiva il fiato sul collo, fece una breve deviazione per attaccare un accampamento di cinesi. I soldati arrivarono qualche secondo dopo e trovarono diversi uomini morti e parecchi agonizzanti. Si diceva che Joaquín Murieta si accanisse contro gli asiatici perché, benché armati, raramente si difendevano. Era talmente temuto dai celestiali che anche solo il suo nome provocava un'esplosione di panico. Tra le tante voci ne correva una, persistente, secondo la quale il bandito stava realizzando il suo progetto di armare un esercito per poi, con la complicità dei ricchi rancheros messicani della regione, provocare una rivolta, sollevare la popolazione spagnola, massacrare gli americani e restituire la California al Messico o trasformarla in repubblica indipendente. Le proteste popolari spinsero il governatore a firmare un decreto in cui si autorizzavano il capitano Harry Love e un gruppo di 20 volontari a dare la caccia per 3 mesi a Joaquín Murieta. A ogni uomo venne assegnato uno stipendio di 150 dollari al mese, importo non rilevante, tenuto conto del fatto che dovevano finanziarsi l'acquisto di cavalli, armi e provviste. Ciò nonostante, in meno di una settimana, la brigata era pronta a mettersi in marcia. La testa di Joaquín Murieta valeva una ricompensa di 1.000 dollari. Come sosteneva Jacob Fremont sul giornale, visto che un uomo veniva condannato a morte senza che se ne conoscesse l'identità, senza che i crimini fossero provati e senza processo, la missione del capitano Love equivaleva a un linciaggio. Eliza provò un misto di terrore e sollievo che non riuscì a spiegarsi. Non voleva che quegli uomini uccidessero Joaquin, ma probabilmente erano gli unici in grado di trovarlo. Desiderava solamente liberarsi dall'incertezza, era stanca di combattere con i fantasmi. A ogni buon conto, non erano molte le probabilità che il capitano Lava avesse successo là dove tanti avevano fallito. Joaquín Murieta aveva l'aria di essere invincibile. Si diceva che solo un proiettile d'argento avrebbe potuto ucciderlo perché gli avevano scaricato a bruciapelo 2 caricatori in pieno petto e lui aveva continuato a galoppare nella regione di Calaveras. Se il tuo innamorato è quella bestia, tanto meglio se non lo trovi, commentò Tao Chien quando lei gli mostrò i ritagli di giornale che da più di un anno metteva da parte. Non credo sia lui. Come fai a saperlo? Nei sogni lei vedeva l'antico amante con il solito abito sciupato e le camicie sfilacciate, ma pulite e ben stirate dei tempi in cui si erano amati a Valparaiso. Le appariva con la sua aria tragica, i suoi occhi intensi, il suo aroma di sapone, il sudore fresco. La prendeva per mano come allora e le parlava con esaltazione della democrazia. A volte stavano sdraiati sul mucchio di tende della stanza degli armadi, uno di fianco all'altra, senza toccarsi, completamente vestiti, mentre intorno a loro scricchiolava il legno sferzato dal vento di mare. E sempre, in ogni sogno, Joaquin aveva una stella di luce in fronte. «E cosa significa?» vuole sapere Tao Qian. «Nessun uomo cattivo può avere la fronte illuminata». «È solamente un sogno, Eliza». «Non è un sogno, Tao, sono molti». Allora stai cercando l'uomo sbagliato. Forse, ma comunque non è stata una perdita di tempo, replicò lei senza offrire ulteriori spiegazioni. Per la prima volta in 4 anni tornò ad avere coscienza del proprio corpo, che era stato totalmente trascurato dal momento in cui Joaquín Andieta si era congedato da lei in Cile, quel funesto 22 dicembre 1848. Nella sua ossessiva ricerca di quell'uomo aveva rinunciato a tutto, compresa la sua femminilità. Temeva di aver perso per strada la sua condizione di donna e di essersi trasformato in un raro essere asessuato. A volte, mentre cavalcava per boschi e colline, esposta all'inclemenza di tutti i venti, le venivano in mente i consigli di Miss Rose che si lavava con il latte e non avrebbe mai permesso a un raggio di sole di posarsi sulla sua pelle di porcellana. Ma non era il caso di indugiare in simili considerazioni. Sopportava sforzi e penitenze perché non aveva alternative. Considerava il suo corpo come i suoi pensieri, la sua memoria o il suo olfatto parti inscindibili della sua persona. Prima non capiva a cosa si riferisse Miss Rose quando parlava di anima, perché non riusciva a distinguerla in quell'unicità che sentiva di essere, ma ora iniziava a intravederne la natura. L'anima era la parte immutabile di se stessa. Il corpo, invece, era quella terribile bestia che dopo anni di letargo si svegliava indomita e piena di esigenze, che veniva a ricordarle l'ardore del desiderio che era riuscita ad assaporare brevemente nella stanza degli armadi. Da allora non aveva più provato la vera urgenza dell'amore o del piacere del corpo, come se quella parte di lei fosse rimasta profondamente addormentata. Aveva attribuito tutto ciò al dolore seguito all'abbandono da parte dell'amante, al panico di essersi scoperta incinta, al suo transito nei labirinti della morte, nella stiva, al trauma dell'aborto. Ne era uscita talmente mal ridotta che il terrore di rivedersi in tali circostanze aveva avuto la meglio sull'impeto della gioventù. Pensava che il prezzo dell'amore fosse troppo alto e che fosse meglio astenersi completamente, ma qualcosa le si era mosso dentro negli ultimi 2 anni passati con Tao Qian e all'improvviso l'amore, come anche il desiderio, le sembravano inevitabili. Iniziava a pesarle non poco la necessità di vestirsi da uomo. Ricordava la stanza del cucito in cui sicuramente in quel momento Miss Rose stava confezionando uno dei suoi splendidi vestiti e la investiva un'ondata di nostalgia per quei leggiadri pomeriggi dell'infanzia, per il tè delle 5 nelle tazze che Miss Rose aveva ereditato da sua madre, per le scorribande a comprare frivoli oggetti di contrabbando nelle barche. E che n'era stato di Mamma Fresia? La rivedeva brontolare in cucina, grassa e tiepida, con il suo aroma di basilico, il mestolo perennemente in mano e una pentola a bollire sulla stufa, come un'affabile stregona. Provava una nostalgia opprimente per la complicità femminile di quei tempi, un perentorio desiderio di sentirsi di nuovo donna. Nella sua camera non c'era uno specchio a tutta altezza per osservare quella creatura femminile che lottava per imporsi. Voleva guardarsi nuda. A volte si svegliava all'alba, sconvolta da sogni passionali in cui all'immagine di Joaquín Andieta con una stella in fronte si sovrapponevano altre visioni scaturite dai libri erotici che un tempo leggeva ad alta voce alle colombe della Spaccaossa. Quelle descrizioni che allora riferiva con palese indifferenza perché in lei non evocavano nulla, ora giungevano ad agitarle i sogni come spettri lubrici. Sola, nella sua bella camera dai mobili cinesi, approfittava della luce dell'aurora che filtrava debolmente dalle finestre per dedicarsi all'inebriante esplorazione di se stessa. Si toglieva il pigiama, guardava con curiosità le parti del corpo che riusciva a vedere e percorreva a tentoni le altre come aveva fatto anni prima, all'epoca in cui stava scoprendo l'amore. Non era cambiata molto. Era più magra, ma sembrava anche più forte. Le mani erano indurite dal sole e dal lavoro, ma il resto del corpo era chiaro e liscio come lo ricordava. Le sembrava sorprendente che dopo essere stati per tutto quel tempo schiacciati da una fascia, i seni fossero ancora quelli di prima. piccoli e sodi con i capezzoli simili a ceci. Si scioglieva i capelli, che non tagliava da 4 mesi, e raccoglieva in uno stretto codino sulla nuca. Chiudeva gli occhi e scuoteva la testa, provando il piacere del peso e della consistenza da animale vivo della sua capigliatura. La meravigliava quella donna quasi sconosciuta dalle cosce e i fianchi morbidi, dalla vita snella, con una peluria crespa e dura sul pube, così diversa dai capelli morbidi e lisci. Sollevava un braccio per misurarne la lunghezza, per apprezzarne la forma, per vedere da lontano le unghie. Con l'altra mano si toccava il busto, il rilievo delle costole, la cavità dell'ascella, il profilo del braccio. Si soffermava sui punti più sensibili del polso e del gomito, chiedendosi se anche Tao soffrisse solletico nelle stesse zone. Si toccava il collo, seguiva le orecchie, l'arco delle sopracciglia, la linea delle labbra. Percorreva con un dito l'interno della bocca e poi lo conduceva ai capezzoli che si indurivano a contatto con la saliva calda. Passava con determinazione le mani sulle natiche per coglierne la forma e poi con dolcezza per sentire la levigatezza della pelle. Si sedeva sul letto e si accarezzava dai piedi all'inguine, sorpresa dalla quasi impercettibile peluria dorata che le era comparsa sulle gambe. Separava le cosce e toccava la misteriosa fessura del suo sesso. Cercava il bocciolo, centro di desideri e smarrimenti, e non appena lo sfiorava, accorreva immediatamente la visione inattesa di Tao Qian. Non era Joaquin Andieta, il cui viso a malapena riusciva a ricordare, bensì il suo fedele amico, a nutrire le sue fantasie febbrili in un'irresistibile miscela di abbracci focosi, dolce tenerezza e riso contagioso. Dopo si odorava le mani, nell'emozione di quel potente aroma di sale e frutta matura che il suo corpo sprigionava. 3 giorni dopo il decreto governativo che stabiliva il prezzo della testa di Joaquin Murieta, nel porto di San Francisco attraccò il vapore Northerner con a bordo 275 sacchi di posta e Lola Montes. Era la cortigiana più famosa d'Europa, ma né Tao Qian né Eliza l'avevano mai sentita nominare. Era un caso che si trovassero al molo. Erano lì per ritirare una cassa di medicine cinesi che un marinaio portava loro da Shanghai. Pensarono che la ragione di quello schiamazzo da baccanale fosse la posta, perché mai se n'era ricevuto un carico così abbondante, ma i petardi da festa li illuminarono circa l'errore. In quella città, avvezza a ogni sorta di prodigio, la massa di uomini curiosi si era riunita per vedere l'impareggiabile Lola Montes che giungeva dall'istmo di Panama, preceduta dal rullare di tamburi della sua fama. Scese dall'imbarcazione tra le braccia di un paio di fortunati marinai che la deposero sulla terraferma con i riguardi dovuti a una regina. E come tale, infatti, si comportava quella celebre amazzone mentre riceveva le ovazioni dei suoi ammiratori. Lo scompiglio colse di sorpresa Eliza e Tao Qian, che ignoravano il lignaggio della bella, ma di cui furono immediatamente messi al corrente dagli spettatori. Si trattava di un'irlandese illegittima e di umili origini che si faceva passare per una nobile ballerina nonché attrice spagnola. Danzava come una papera e dell'attrice aveva solo la smodata vanità, ma il suo nome evocava le immagini licenziose delle più grandi seduttrici da Dalila a Cleopatra ed era per questo che folle in delirio accorrevano ad applaudirla. Non erano attratte dal suo talento, ma dal desiderio di verificare da vicino il suo perturbante cinismo, la sua favolosa bellezza e il suo temperamento selvaggio. Dotata unicamente di sfacciataggine e di audacia, riempiva i teatri, costava quanto un esercito, collezionava gioielli e amanti, si lasciava andare a bizze leggendarie, aveva dichiarato guerra ai gesuiti ed era stata espulsa da varie città, ma la sua impresa più memorabile consisteva nell'aver spezzato il cuore di un re. Ludovico I di Baviera era stato per 60 anni una persona proba, avara e prudente, fino a quando lei non aveva incrociato la sua strada. Gli aveva fatto fare un paio di salti mortali e l'aveva lasciato ridotto a un fantoccio. Il monarca aveva perso il senno, la salute e l'onore, mentre lei prosciugava le casse reali di quel piccolo regno. Tutto quel che poteva desiderare l'innamorato Ludovico glielo diede, compreso il titolo di contessa, ma non riuscì a ottenere che i suoi sudditi l'accettassero. I pessimi modi e gli sventati capricci della donna suscitarono l'odio dei cittadini di Monaco che finirono per riempire in massa le strade pretendendo l'espulsione della favorita del re. Invece di dileguarsi in silenzio, Lola affrontò la turba armata con un frustino da cavalli e l'avrebbe fatta a pezzetti se i suoi fedeli servitori non l'avessero spinta a viva forza in una carrozza che la condusse alla frontiera. Disperato, Ludovico I abdicò al trono e si preparò a seguirla in esilio, ma privo di corona, potere e conti correnti, il cavaliere esercitava ben poca attrattiva e la bella non ci mise un granché a piantarlo. Insomma, il suo unico merito è la cattiva fama, commentò Tao Qian. Un gruppo di irlandesi sganciarono i cavalli dalla carrozza e, collocatisi ai loro posti, la trasportarono fino all'hotel per strade tappezzate da petali di fiori. Eliza e Tao Qian la videro passare nella gloriosa processione. Quel che ci mancava in questo paese di pazzi, sospirò il cinese senza degnarla di un secondo sguardo. Eliza seguì la baraonda per qualche isolato tra il divertito e lo stupito, mentre tutti intorno venivano sparati in aria razzi e petardi. Lola Montes teneva il cappello in mano, aveva capelli neri con la riga in mezzo, ricci all'altezza delle orecchie e occhi allucinati blu notte. Indossava una gonna di velluto vescovile, una blusa con pizzi al collo e ai polsi e una corta giacchetta da torero impreziosita di perline. Il suo fare beffardo e il tono di sfida rivelavano la piena consapevolezza di incarnare i desideri più primitivi e segreti degli uomini e simboleggiavano quanto i difensori della morale avevano motivo di temere maggiormente. Era un idolo perverso, orgoglioso del proprio ruolo. Nell'entusiasmo del momento, qualcuno le lanciò una manciata d'oro in polvere che le rimase attaccata ai capelli e ai vestiti come un'aura. La visione di quella giovane donna trionfante e ardita scosse Eliza. Pensò a Miss Rose, come le accadeva sempre più spesso, e provò per lei un'ondata di compassione e di tenerezza. La rivide sussultare nel bustino, la schiena ritta, la vita strozzata, sudare sotto le cinque sottovesti. Siediti a gambe unite, cammina dritta, non andare di fretta, parla a bassa voce, sorridi, non fare smorfie perché ti riempirai di rughe, taci e fingi di essere interessata. Gli uomini sono lusingati dalle donne che li ascoltano. Miss Rose, con il suo profumo di vaniglia, sempre condiscendente. E poi la rivide anche nella vasca da bagno, coperta semplicemente da una camicia bagnata, gli occhi brillanti per le risate, i capelli scompigliati, le guance rosse, libera e contenta mentre le sussurrava: «Una donna può fare quel che le pare, a patto che lo faccia con discrezione». Lola Montes, invece, lo faceva senza la minima prudenza. Aveva vissuto più vite, lei, del più feroce avventuriero, e lo aveva fatto dall'alto della sua boriosa condizione di femmina ormai ricca e indipendente. Quella sera Eliza si diresse pensierosa in camera sua e aprì con circospezione la valigia dei suoi vestiti, come se stesse facendo qualcosa di proibito. L'aveva lasciata a Sacramento quando era partita per la prima volta all'inseguimento del suo amante, ma Tao Qian l'aveva conservata pensando che un giorno o l'altro il contenuto sarebbe potuto tornarle utile. Mentre l'apriva, qualcosa cadde a terra e constatò con sorpresa che si trattava della sua collana di perle, il prezzo pagato a Tao Qian per essere imbarcata. Rimase a lungo con le perle in mano, commossa. Sbatté i vestiti e li mise sul letto. Erano sgualciti e sapevano di cantina. Il giorno dopo li portò nella miglior lavanderia di Chinatown. «Tao, ho deciso di scrivere una lettera a Miss Rose», annunciò. «Perché?» «Beh, è come una madre per me, le voglio molto bene e sono certa che anche lei mi contraccambia. Ha passato 4 anni senza avere mie notizie, probabilmente crede che sia morta. Avresti voglia di vederla?» «Certo, ma è impossibile. Le scrivo solamente per tranquillizzarla, ma mi piacerebbe che potesse rispondermi. Ti dispiace se le comunico questo indirizzo?» «Tu vuoi che la tua famiglia ti trovi?» continuò lui e gli si ruppe la voce. Lei rimase a guardarlo e si rese conto di non essere mai stata tanto vicina a qualcuno nella sua vita come lo era in quel momento a Tao. Sentì di avere quell'uomo nel sangue con una certezza così antica e selvaggia che si stupì di tutto il tempo passato al suo fianco senza rendersene conto. Sentiva la sua mancanza pur vedendolo tutti i giorni, provava nostalgia per i tempi spensierati in cui erano stati buoni amici, in cui tutto sembrava più facile e tuttavia non desiderava tornare indietro. C'era qualcosa in sospeso tra loro, qualcosa di molto più complicato e affascinante della vecchia amicizia. Vestiti e sottovesti avevano fatto ritorno dalla lavanderia e ora giacevano sul letto avvolti dalla carta. Aprì la valigia ed estrasse le calze bianche e gli stivaletti, ma non il bustino. Sorrise all'idea di non essersi mai vestita da signorina senza l'aiuto di qualcuno. Poi indossò le sottovesti e si provò i vestiti a uno per scegliere il più adatto all'occasione. Si sentiva straniera in quegli indumenti, si imbrogliò con i nastri, i pizzi e i bottoni, ci mise diversi minuti per allacciarsi gli stivaletti e per trovare l'equilibrio sotto tante sottovesti, ma a ogni capo che indossava le esitazioni venivano meno e si rafforzava il desiderio di tornare a essere donna. Mamma Fresia l'aveva avvertita a proposito del destino della femminilità. Il corpo si modificherà, ti si annebbieranno le idee e qualsiasi uomo potrà fare con te quel che gli pare, diceva. Ma ormai questi rischi non la spaventavano più. Tao Qian aveva finito di prendersi cura dell'ultimo ammalato del giorno. Era in maniche di camicia, si era tolto la giacca e la cravatta che portava sempre per rispetto nei confronti dei pazienti, come gli aveva consigliato il maestro di agopuntura. Stava sudando perché il sole non era ancora tramontato e quello era stato uno dei pochi giorni caldi del mese di luglio. Pensò che non si sarebbe mai abituato ai capricci climatici di San Francisco, dove l'estate aveva tutta l'aria dell'inverno. In genere all'alba splendeva un sole raggiante e dopo poche ore dalla Golden Gate si infilava una spessa caligine o iniziava a spirare il vento di mare. Stava riponendo gli aghi d'oro nell'alcol e mettendo in ordine le boccette di medicine, quando entrò Eliza. L'aiutante era partito e in quei giorni non stavano accudendo nessuna sing-song girl, si trovavano soli in casa. «Ho qualcosa per te, Tao», disse lei. Allora lui sollevò lo sguardo e per la sorpresa gli cadde la boccetta dalle mani. Eliza indossava un elegante vestito scuro con collo di pizzo bianco. L'aveva vista solo due volte in abiti femminili, quando l'aveva conosciuta a Valparaiso, ma non aveva dimenticato il suo aspetto di allora. Ti piace? Sempre mi piaci, sorrise lui, togliendosi gli occhiali per ammirarla da lontano. Questo è il mio vestito della domenica. Me lo sono messo perché voglio farmi fare un ritratto. Prendi, questo è per te. E gli allungò un sacchetto. Cos'è? Sono i miei risparmi per comprare un'altra bambina, Tao. Pensavo di andare a cercare Joaquin quest'estate, ma non lo farò. So già che non lo troverò mai. Bah, a quanto pare siamo venuti tutti a cercare una cosa e ne abbiamo trovata un'altra. Tu cosa cercavi? Sapere? Saggezza, non ricordo più. Invece ho trovato le Sing Song Girls e guarda in che guaio mi sono infilato. Ah, davvero molto romantico. Per galanteria avresti potuto anche dire che hai trovato me. Ti avrei trovata comunque, era destino. Non mi venire a raccontare la storia della reincarnazione. Esatto, a ogni incarnazione torneremo a incontrarci fino a quando avremo risolto il nostro karma. Detto così suona spaventoso. A ogni modo, non tornerò in Cile, ma non continuerò nemmeno a nascondermi, Tao. Adesso voglio essere me stessa. Lo sei sempre stata. La mia vita è qui, insomma, se vuoi il mio aiuto. E Joaquín Andieta? Forse la stella in fronte significa che è morto. Prova a immaginare questo terribile viaggio inutilmente. Non c'è niente di inutile. Nella vita non si arriva da nessuna parte, Eliza. Si cammina e basta. Quando abbiamo camminato insieme non era male. Accompagnami, vado a farmi fare un ritratto da inviare a Miss Rose. Puoi fartene fare uno anche per me? Si diressero a piedi, per mano, in Piazza dell'Unione, dove avevano aperto diverse botteghe di fotografi, e scelsero la più vistosa. Nella vetrina era esposta una collezione di immagini degli avventurieri del 49, un giovane dalla barba bionda e dall'espressione determinata, con pala e piccone tra le braccia, un gruppo di minatori in maniche di camicia, lo sguardo fisso nell'obiettivo, molto seri, cinesi sulla riva di un fiume, indiani che lavavano l'oro con ceste a maglie fitte, famiglie di pionieri in posa vicino alle loro carrozze. I daguerrotipi erano diventati di moda, rappresentavano il vincolo con le persone lontane, la prova del fatto che avevano vissuto l'avventura dell'oro. Si diceva che nelle città dell'Est molti uomini che non erano mai stati in California si facessero ritrarre con attrezzi da minatore. Eliza era convinta che la straordinaria invenzione della fotografia avesse spodestato definitivamente i pittori, che raramente riuscivano a riprodurre immagini davvero somiglianti. Miss Rose ha un ritratto suo in cui appare con tre mani, Tao. Lo dipinse un artista famoso di cui mi sfugge il nome. Con tre mani? Beh, il pittore ne fece due, ma lei fece aggiungere la terza. Suo fratello Jeremy per poco non morì quando lo vide. Desiderava mettere la sua fotografia in una raffinata cornice di metallo dorato e velluto rosso per lo scrittoio di Miss Rose. Aveva con sé le lettere di Joaquín Andieta per immortalarle nell'obiettivo prima di distruggerle. All'interno il negozio ricordava le decorazioni sceniche di un piccolo teatro. C'erano fondali di pergolati fioriti e laghi con aironi, colonne greche di cartone e ghirlande di rose e persino un orso imbalsamato. Il fotografo si rivelò un ometto ansioso che parlando incespicava e camminava, saltellando come una rana per schivare le cianfrusaglie dello studio. Una volta definiti i particolari, fece accomodare Liza davanti a un tavolo con le lettere d'amore in mano e le collocò una sbarra metallica dietro la schiena con un supporto per il collo piuttosto simile a quella che le sistemava Miss Rose durante le lezioni di piano. È per rimanere fermi, guardi la macchina fotografica e non respiri. L'ometto sparì dietro un panno nero. Un attimo dopo, una vampata bianca la accecò e la puzza di bruciato la fece starnutire. Per il secondo ritratto lasciò da parte le lettere e chiese a Tao di aiutarla a chiudere la collana di perle. Il giorno dopo, Tao Qian uscì di buon'ora a comprare il giornale, come era solito fare prima di aprire l'ambulatorio, e vide i titoli a sei colonne. Avevano ucciso Joaquín Murieta. Ritornò a casa con il quotidiano stretto al petto, pensando a come comunicare la notizia a Eliza e a come lei l'avrebbe presa. All'alba del 24 luglio, dopo aver cavalcato per 3 mesi alla cieca per la California, il capitano Harry Love e i suoi 20 mercenari erano arrivati alla valle di Tulare. A quell'epoca erano già stanchi di inseguire fantasmi e correre dietro a piste false. Il caldo e le zanzare li rendevano di umor nero e iniziavano a odiarsi l'un l'altro. 3 mesi estivi, cavalcando alla deriva per quelle colline secche con il sole bollente sulla testa, erano un sacrificio sproporzionato rispetto al compenso ricevuto. Nei villaggi avevano visto gli avvisi in cui si offrivano $1.000 di premio per la cattura del bandito. In molti c'era scarabocchiato sotto «Io ne pago 5.000», firmato Joaquín Murieta. Stavano facendo una figuraccia e mancavano solo 3 giorni allo scadere del termine fissato. Se fossero tornati a mani vuote, non avrebbero visto un centesimo dei $1.000 del governatore. Ma quello probabilmente era il loro giorno fortunato perché proprio quando avevano perso le speranze, incapparono in un gruppo di 7 messicani accampati sotto alcuni alberi e li presero alla sprovvista. Più tardi il capitano avrebbe dichiarato che sfoggiavano abiti e bardature di gran lusso e avevano i più bei destrieri, motivo ulteriore per risvegliare i suoi sospetti, e che fu per questo che si avvicinò e intimò loro di farsi riconoscere. Invece di obbedire, gli individui sospetti corsero ai loro cavalli, ma prima di riuscire a montarli, vennero circondati dalle guardie di Love. L'unico che ignorò seraficamente gli aggressori e si diresse verso il suo cavallo, come se non avesse sentito l'avvertimento, fu colui che aveva tutta l'aria di essere il capo. Portava solamente un coltello da caccia alla cintola, le armi pendevano dalla sella, ma non fece in tempo a porvi mano, perché il capitano gli puntò la pistola in fronte. A pochi passi di distanza, gli altri messicani osservavano con attenzione, pronti ad accorrere in aiuto del capo alla prima distrazione delle guardie, avrebbe detto Love nel suo resoconto. All'improvviso fecero un disperato tentativo di fuga, probabilmente con l'intenzione di distrarre le guardie, mentre il loro capo montava con un formidabile salto sul suo sauro spumeggiante e fuggiva rompendo le file. Non arrivò molto lontano, però, perché un colpo di fucile ferì l'animale che rotolò a terra, vomitando sangue. Allora il cavaliere, che altri non era se non il celebre Joaquín Murieta, come raccontò il capitano Love, si mise a correre come un daino. E non rimase altra alternativa che vuotare i caricatori contro il petto del bandito. Smettete di sparare! Avete già portato a termine il vostro lavoro! Disse prima di cadere lentamente vinto dalla morte. Questa era la versione drammatizzata della stampa e non era rimasto nessun messicano vivo per poter offrire la sua versione dei fatti. Il valoroso capitano Harry Love procedette con una sciabolata a tagliare la testa del presunto Murieta. qualcuno notò che una delle vittime aveva una mano deforme e ne fu immediatamente dato per certo che si trattasse di Jack Tredita. E pertanto fu decapitato pure lui, e già che c'erano gli fu mozzata anche la mano offesa. Le 20 guardie partirono al galoppo in direzione del paese più vicino, che si trovava a diverse miglia di distanza, ma faceva un caldo infernale e la testa di Jack Tredita era talmente perforata dalle pallottole che iniziò a sbriciolarsi e dovettero buttarla via strada facendo. Tormentato dalle mosche e dal cattivo odore, il capitano Harry Love capì che doveva proteggere le spoglie o non sarebbe mai arrivato a San Francisco con le prove necessarie per riscuotere la meritata ricompensa. Quindi le mise in due fiaschi di gin. Venne ricevuto come un eroe. Aveva liberato la California del peggior bandito della storia. Anche se la faccenda non era del tutto chiara, segnalò Jacob Fremont nel suo reportage. La vicenda puzzava di complotto. Tanto per cominciare, nessuno poteva provare che i fatti si fossero svolti come sostenevano Harry Love e i suoi uomini. E risultava un tantino sospetto che dopo 3 mesi di infruttuosa ricerca fossero apparsi 7 messicani, giusto quando il capitano ne aveva più che bisogno. Inoltre, non c'era nemmeno chi potesse identificare Joaquin Murieta. Lui si recò a vedere la testa e non fu in grado di assicurare che fosse quella del bandito. Che aveva conosciuto, anche se ammise una certa somiglianza, c'era. Prima di essere portate in viaggio trionfale per la California, per diverse settimane le spoglie del presunto Joaquin Murieta e la mano del suo abominevole affiliato Jack Tredita furono esposte a San Francisco. Le code dei curiosi facevano il giro dell'isolato perché nessuno voleva perdersi la visione da vicino di tali sinistri trofei. Eliza fu tra i primi a recarsi sul luogo e Tao Qian l'accompagnò, anche se lei aveva accolto la notizia con sorprendente calma, non voleva che affrontasse da sola una prova simile. Dopo un'attesa eterna sotto il sole, alla fine arrivò il loro turno ed entrarono nell'edificio. Eliza afferrò la mano di Tao e avanzò con decisione. Senza pensare al fiume di sudore che le stava inzuppando l'abito e al tremito che le scuoteva le ossa. Si trovarono in una sala buia, mal illuminata da ceri gialli che sprigionavano un alito sepolcrale. Drappi neri coprivano le pareti e in un angolo era stato piazzato un pianista che picchiava sui tasti accordi funebri con rassegnazione più che con autentico sentimento. Su un tavolo, addobbato a catafalco dai drappi, erano state sistemate le due ampolle di vetro. Eliza chiuse gli occhi e si lasciò guidare da Tao Qian, certa che i colpi di tamburo del suo cuore coprissero gli accordi del piano. Si fermarono, sentì la pressione della mano dell'amico sulla sua, inspirò una boccata d'aria e aprì gli occhi. Guardò la testa per qualche secondo e poi si lasciò trascinare fuori. Era lui? Chiese Tao Qian. Adesso sono libera, rispose lei, continuando a stringergli la mano. Fine. Vi ricordo che la storia di Eliza e Tao prosegue nel romanzo Ritratto in seppia di prossima lettura.